vantaggio, proviamo a finire un settore. No, più che altro per lui, io non ho problemi perché... Allora, sapete cosa facciamo? Io la parte sulle radici teoriche riprende alcuni autori che abbiamo già visto parlando, presentando il testo della Divicona, no? Quindi lì io diciamo approfondisco soltanto alcuni aspetti che nel testo della Divicona erano stati toccati. E in modo particolare su Simmel. Allora, Simmel ne abbiamo già parlato, ricordate di Simmel, no? Per la cerchia sociale, eccetera, eccetera. Allora, secondo Simmel, la sociologia è una cerchia sociale, c'eravate tutti quando abbiamo parlato, vi ricordo le vostre espressioni quando abbiamo presentato la sociologia come geometria del sociale, cioè una grammatica, la sociologia isola il corpo della vita dal contenuto sostanziale e analizza le strutture, questo l'abbiamo già detto. Simmel è l'autore classico in cui è più esplicito un approccio di tipo relazionale. Weber, microsociologia, Durkheim, macrosociologia, Simmel, Meso, l'analisi delle relazioni, volendo tagliare un po' con la scelta. Io continuo a portare un gesto un po' di tocco, va bene. Bene, allora rispetto a Simmel, che cosa vi voglio aggiungere? Vi ricordate che abbiamo parlato dell'individuo isolato, della diade, che è priva di unità sovrapersonale, della triade, eh? Che cosa voglio aggiungere su Simmel che trovate dentro il libro di Chiesi? Le riflessioni sullo studio delle strutture delle società segrete, società carbonare. Allora Simmel era molto affascinato dalle società segrete e in modo particolare allo studio delle strutture delle società. E questo argomento secondo me è anche altamente evocativo rispetto a quello che state studiando dentro questa magistrale. Perché le società segrete sono interessanti per Simmel? Perché attraverso le caratteristiche formali, cioè proprio come si l'organigramma, potremmo dire, no? Come si strutturano le società segrete, devo mantenere una struttura gerarchica e coesa, laddove la gerarchia è fondamentale, perché la struttura gerarchica coesa è necessaria per l'efficienza operativa. E adesso, visto che prima ne abbiamo parlato, perché la vostra collega ha fatto l'esempio, io direi che questo vale, cioè il nesso tra struttura allo stesso tempo gerarchica e coesa ed efficienza operativa è difficilmente discutibile in ambito organizzativo. Ora, delle società segrete. Le società segrete, però. L'organizzazione militare o solo una struttura gerarchica coesa? Beh, io direi che quasi tutte le organizzazioni sono così. Sono interventi militari perché hanno proprio. Sì, hanno proprio una gerarchia. Però sulla carta ci può essere, d'accordo? Ed è più facile che in alcune strutture ci sia sulla carta e ci sia anche nella realtà. Perché anche un'associazione di terzo settore ha un presidente tendenzialmente un direttivo. Massoneria. Sì, ecco, questo, per esempio, il caso della massoneria. Ma quello che voglio discutere in modo particolare è il nesso tra una struttura gerarchica e coesa, ma che sia effettivamente così, non solo sulla carta, e l'efficienza operativa, cioè il fatto che produca le azioni per le quali è nata questa struttura organizzativa. Ok? Questa è la prima finalità, garantita attraverso le caratteristiche formali. La seconda è rendere la struttura. Questo volevo dire. Perché sono particolarmente interessanti le società segrete? Perché le società segrete, a differenza delle altre forme di organizzazione, vivono in un ambiente ostile. Vivono in un ambiente che è come se fossero un virus dentro il sistema, dentro il flusso sanguigno, no? Vivono in un ambiente che le vuole distruggere, ok? Questo in un certo senso acutizza, rende più evidenti alcune caratteristiche strutturali organizzative, per questo sono esemplari, lo studio di queste organizzazioni è esemplare, proprio perché si vede più chiaramente il fenomeno, no? Allora, la prima è questa, l'efficienza operativa e la struttura gerarchica. questa. La seconda è, proprio perché si stende un ambiente ostile, rendere la struttura difficilmente penetrabile dall'esterno attraverso la segmentazione delle relazioni tra i membri. La segmentazione formale e strutturale delle relazioni tra i membri rende la società segreta più resistente, la immunizza maggiormente rispetto all'ambiente esterno che la vuole distruggere. Sei contento di fermare l'evento X eversivo, sovversivo, eccetera, ma vuole distruggere, cioè la vuole eliminare, questo è il senso, d'accordo? In un certo senso anche lo studio delle strutture delle società, delle organizzazioni criminali è molto importante da questo punto di vista. Voi per esempio prendete la forma organizzativa che utilizza Cosa Nostra. Guardate in che modo quel tipo di strutture organizzative hanno usato un ambiente accrescendo, eccetera, dove prima erano sconosciute, per esempio, poi si sono diffuse nei Stati Uniti d'America. Cioè, voglio dire, l'organizzazione formale, strutturale di queste forme di vita organizzata è molto importante, perché decide della potenzialità, delle capacità che hanno nelle reperire risorse, che naturalmente poi queste forme organizzative utilizzano per produrre i crimini più efferati, quindi nuocendo alla qualità della vita dell'intero contesto sociale, e allo stesso tempo resistere ad un ambiente che comunque le cerca e le vuole distruggere. Allora, qui abbiamo una delle caratteristiche del pensiero sumediano, no? All'aumento dell'isolamento verso l'esterno corrisponde un aumento della coesione interna dentro al gruppo della fronte esterna. Allora, dentro al testo trovate l'esempio della società, della setta segreta ceca o latina, a partire da come si organizza questa setta segreta, si capisce perché la struttura è utile a raggiungere le due finalità: è coesa, è gerarchicamente controllata ed è resistente rispetto al tentativo esterno di distruggerla. Qui abbiamo tre livelli gerarchici e una base associativa. La base associativa è necessaria per determinare direttamente il terzo livello gerarchico. Sapete più perché c'è una P? Perché la metafora utilizzata in questa setta segreta è quella della mano: pollice, dito, dito, dito, dito. Ok? Come se ogni gruppo operativo è come se fosse una mano, d'accordo? C'è un pollice che è il secondo livello gerarchico e le dita con le quali lavora e che nomina, d'accordo? È il primo livello gerarchico. Qui vedete che c'è una gerarchia all'interno, questi come se fossero gruppi operativi, cioè quelli che si occupano delle azioni avversive sul campo, un attentato, un volantinaggio contro il sistema, eccetera, eccetera. Ecco perché la struttura la rende, favorisce la impermeabilizzazione rispetto ai tentativi esterni di essere, perché se qualcuno di questi soggetti dovesse essere preso nell'azione operativa, pure dietro la peggiore delle torture, potrebbe al massimo fare il nome di questo soggetto e dei suoi collaboratori, cioè non è in grado, non conosce i membri degli altri gruppi operativi, non ha nessun collegamento con loro. Sì, se prendi le dita di questi qua, ma se tu prendi la B, non sa chi è stato a portarlo a quello stato, capisce? Non ha nessun legame con loro, se non per il fatto che l'hanno scelto. Questo tipo di organizzazione rende questa mano immune rispetto al possibile cedimento dietro le peggiori torture dei membri dell'altra mano, perché non sono nella condizione strutturale di sapere chi sono i membri del resto. Naturalmente il terzo livello gerarchico non è mai diretto, non è mai coinvolto nelle azioni pratiche. D'accordo? È tutelato, è ignoto, non è neanche conosciuto. Ora, chiaramente non è che sia, come dire, eterna, immortale, eccetera, però questo è un esempio di come organizzare in un certo modo una struttura produca alcuni effetti. In questo caso l'effetto principale di questa organizzazione era di renderla, salvarla dai possibili cedimenti e dai fallimenti di una delle cellule operative. Ok? Naturalmente, per dire l'esito di questo processo, non dobbiamo parlare delle caratteristiche di personalità, di competenze, eccetera, di questi soggetti. Non ci interessano quelle. La SIME non è interessato a quello. Fa parte dei contenuti, si occupa, altre discipline si occupano di questi aspetti, psicologia, eccetera. A me interessa che, a prescindere da chi ci stia qua, dal fatto che sia più grande, che sia una persona capace di spiccato eroismo, cioè che resista alla peggiore delle torture, oppure che sia comunque spende al migliore offerente, questo non stia nelle condizioni di nuocere al resto della struttura. Mi interessa solo quello che ciò, questo è il punto di vista, se vogliamo. Le forme, le strutture, ok? Comunque possiamo dire che la parte esecutiva, l'ultima, diciamo il primo livello gerarchico, sì, la parte esecutiva. Sì, primo livello nel senso invece che degli altri non c'è esecutiva, ma sono solo comunicazioni, informazioni e ordine, coordinamento. Esatto, sì. Lo possiamo senz'altro dire, certo, Però lei capisce bene che se avessimo previsto questa differenza, per esempio, in questo modo, faccio un esempio, questo è il terzo livello gerarchico. Ok, questo è il secondo. E questo è il terzo. Qui apparentemente non è cambiato molto. Ma secondo lei questa forma di organizzazione ha la stessa capacità che ha quella di difendersi, di immunizzarsi rispetto all'esterno? O è più bassa? Più bassa, perché c'è un collegamento, è più vicino. Cioè, noi potremmo anche contare la stessa quantità, questo è un esempio, la ringrazio per questa domanda, perché mi consente di fare un esempio a cui non avevo pensato, quindi la ringrazio. Noi potremmo anche contare e trovare dentro queste due forme di organizzazione la stessa quantità di nodi e la stessa quantità di legami. Ma il fatto che si strutturino in questa maniera invece che in quell'altra rende queste strutture completamente diverse rispetto ai fini che possono ottenere. Ma questa è una cosa eccezionale, se ci pensiamo. Anche sulla che abbiamo appena detto prima, penetrabile. Come? Sulla penetrazione. Sì. La seconda. Sì, sull'impermeabilità, sì. Sul fatto che sia. Ecco, voi pensate, oppure potremmo averla organizzata ancora in un'altra maniera, non so, avere un gruppo di secondo livello di soggetti che cooperano tra di loro e che poi scendono assieme uno o più gruppi operativi. Questa sarebbe ancora diversa. Quali effetti produce? L'aspetto interessante di tutta questa vicenda è che noi, per capire quali sono gli effetti che può produrre, per delimitare gli orizzonti delle possibilità, non abbiamo bisogno dell'individuo. Però dipende dal tipo di organizzazione, chiamiamolo così, queste sette, dipende dalla finalità della setta. Metterà organizzata così perché non si arriva a capire o a nuocere agli altri. L'organizzazione che potrebbe essere fatta così, sì, è legata al fine, nel senso che magari non hanno l'interesse di nuocere agli altri. Assolutamente, ma stiamo di qua. Quel tipo di organizzazione è più funzionale rispetto a quello che ho disegnato io alla lavagna per queste due finalità, in modo particolare per questa. Quindi, voglio dire, questo quello che dice è vero, però noi potremmo avere la necessità, quindi voglio dire, dal punto di vista teorico, empirico, teorico nel senso proprio di le teorie sono leggi sulla realtà, d'accordo? Potremmo essere interessati a sapere per ogni ambito di intervento quali sono le forme di organizzazione che funzionano meglio. Per esempio, rispetto alle organizzazioni di secondo livello, cioè le reti tra associazioni, quindi potremmo dire reti di soggetti, tra soggetti collettivi, poi lo vedremo, vedremo un esempio di questo. Però questo è molto interessante e soprattutto ciò che è interessante e che ho aggiunto poi alla fine, a mio modo di vedere, è proprio che è questo: noi non possiamo immaginare una rete come una somma, una giusta posizione di nodi e di legami, perché il modo in cui questi nodi e questi legami poi si organizzano nella realtà produrre delle configurazioni strutturali che sono completamente diverse. Per esempio, facciamo un esempio, no? In ambito come sapete, nell'università i dipartimenti hanno delle commissioni che lavorano per la ricerca, per i fondi di ricerca, eccetera, eccetera. Voi immaginate un'organizzazione di questo tipo per le commissioni. Che effetti produce? Sicuramente un effetto di incatenamento tra le commissioni. Questo può cambiare il modo in cui lavorano, a prescindere dai soggetti che le costituiscono. Immaginate dei reparti operativi in situazioni di emergenza organizzati così. Che effetti può produrre sull'azione? Può facilitare? È chiaro, non è facile rispondere in un attimo, no? Però quello che io voglio dire è che la somma di legami, la somma di nodi, non è sufficiente. Bisogna vedere come si distribuiscono. E questo esempio che fa Silvia ci apre la mente rispetto a queste possibilità, l'orizzonte delle possibilità. E qui facciamo un'altra, diciamo, di nuovo un altro riferimento all'inquadramento di natura teorico, nel senso di guardare quello che succede nella realtà. Negli Stati Uniti, sottolinea Chiesi, si sviluppa l'analisi delle strutture relazionali, sebbene non attraverso un impegno di natura teorica. Cioè, sostiene Chiesi che l'interesse iniziale negli Stati Uniti per l'analisi delle relazioni sia stato prevalentemente collegato a delle ragioni di carattere pratico. In modo particolare, la causa scatenante è stata la nascita e la diffusione dei grandi oligopoli e delle concentrazioni finanziarie. Cosa vuol dire oligopolio? Vuol dire che poche società hanno tendenzialmente il controllo di un mercato. E come si controlla un mercato, secondo voi? Ma attraverso quale strumento si controlla un mercato? Decidono i prodotti, i prezzi. E i prezzi, cioè controllando i prezzi dei prodotti. Naturalmente, per controllare i prezzi si controlla anche la qualità di produzione, eccetera, eccetera. No? Bene, allora si studiano in questo modo quelli che si chiamano interlocking directories. Che cosa sono questi? Gli interlocking directories sono dei legami personali tra consigli di amministrazione. Legami personali tra consigli di amministrazione. Cioè la presenza di un manager in due o più consigli di amministrazione è vista come un legame informale di coordinamento tra due o più società. Se due o più società hanno dei consigli di amministrazione parzialmente sovrapposti tra di loro, cioè condividono dei consiglieri di amministrazione, questi punti di contatto tra società favoriranno il coordinamento tra di essi. Questa pratica è stata vietata, vedete il riferimento a Creighton Heads, che trovate all'inizio del Novecento, 1914. Quindi questa intersezione tra consigli di amministrazione e il coordinamento dovuto a queste sovrapposizioni è stato da subito identificato ed è sicuramente un richiamo all'analisi, alla rilevanza, all'importanza dell'analisi delle sarebbe una specie di broker. In Italia è possibile. In Italia non ho capito. In Italia è possibile che una persona faccia parte di due o più corsi. Ma se lo mettiamo nella rete, cioè diventerebbe una specie di broker con due reti diverse, cioè tre. Sì, però diciamo che da questo punto di vista l'aspetto rilevante consiste proprio nel fatto che diciamo, forse è meglio utilizzare il punto di rappresentazione, questo è un CTA, questo è un altro CTA, questo è un altro CTA, questo favorisce il coordinamento tra questi tre. Come se fosse uno. Come se fosse uno quasi, no? E naturalmente questo è tipico di studi in questa diciamo, parte del mondo. Chi è che ci rimette? Ci rimette il consumatore finale, perché il mercato non è libero. Il prezzo è deciso ex ante da questi soggetti. Però è un monopolio, non è anche un oligopolio, diciamo. Sì, da un punto di vista. E abbiamo un esempio di effetto negativo prodotto rispetto naturalmente non ai benefici economici delle aziende che si coordinano, ma negativo rispetto alle tasche dei consumatori, no? E quindi ecco, mentre adesso parlavo, riflettevo anche sull'esempio che abbiamo visto prima della società segreta, perché è molto importante definire quando si deve costruire una rete qual è lo scenario, che cosa è un valore. Se volessimo, conoscendo uno strumento analitico che può essere utile per mettere in fila il valore e il resto delle dimensioni di un sistema, uno strumento analitico che magari comincia con una G. Agile. Qual è il valore? Ok, è questo che decide lo scopo della rete. Io ritengo che la rete stia qua. È la dimensione strutturale, è la risorsa, e assieme a questo le regole di funzionamento di un più ampio e più generale sistema. La rete sta qua. E serve, deve essere tollerata a livello valoriale e deve servire a raggiungere uno scopo. Per esempio, nel caso precedente della società segreta, rispetto alla finalità che ha, quella rete è adeguata. Prima io dico, ma proviamo a immaginare l'organizzazione di un servizio così in situazione di emergenza, oppure addirittura delle commissioni dipartimentali. È chiaro che se noi riflettiamo rispetto al valore e agli scopi che queste forme organizzative devono raggiungere, quella struttura non è una buona struttura. Una struttura di quel tipo non consente, per esempio, a livello dipartimentale, non consentirebbe un coordinamento armonico tra le attività delle diverse commissioni, che dovrebbero teoricamente tutte andare verso la stessa direzione. Ok? È necessario che ci sia questa armonia nel coordinamento, non invece una segmentazione. Una incapacità di osservazione reciproca, quella che sarebbe fondamentale e importante, ma chiaramente in quell'esempio lì non abbiamo delle strutture che sono, come dire, oggetto di attacco da parte del sistema più generale, come invece nel caso delle società segrete, d'accordo? E quindi quella struttura non è utile per raggiungere gli scopi che il valore della ricerca e della formazione universitaria, sto facendo un esempio, d'accordo? Ma secondo me lo stesso cosa potrebbe dirsi anche nell'ambito dell'intervento in situazione d'emergenza, no? A meno che, insomma, bisognerebbe capire un po' il caso specifico, però vedrei una mancanza di coordinamento fondamentale lì tra i gruppi operativi. Se, anche perché molto spesso si fondano sul lavoro volontario, quindi una gerarchia presente come in quel tipo di organizzazione potrebbe essere scarsamente compatibile con i valori di chi si impegna, di chi lavora. Insomma, quello che è interessante e bello di questa faccenda è che non c'è un cercario, d'accordo? E che però noi possiamo immaginare, a partire da una configurazione strutturale, che tipo di effetti produce. Però determinate organizzazioni funzionano perché hanno una struttura gerarchica riconosciuta. Ah beh, certo. Questo... Io vedrei strano il metodo come ha fatto a, non ricordo il nome dello studioso, come ha fatto a trovare basta, diciamo, sì. Come ha fatto a individuare le relazioni segrete, perché... Ah no, Zimmer. Beh no, diciamo che la storia delle modalità organizzative di queste società segrete erano note, insomma, d'accordo? Nel periodo in cui lui se ne è occupato a livello di riflessione. Quello che lui ha messo in rilievo è stato il nesso tra gli effetti prodotti da queste società e la struttura che avevano creato. E sicuramente c'è stato un lavoro a tavolino da parte di chi le ha create per avere quell'effetto, d'accordo? Perciò diventa veramente, come dire, fa sorridere avere un approccio che sia sempre uguale rispetto a qualsiasi finalità nell'organizzazione. Questo non funziona, perché c'è di per sé una capacità, salvo poi riconoscere sempre le responsabilità a coloro che occupano le posizioni. Ma è chiaro che se la struttura rende impossibile, oppure rende impossibile che si eviti un certo fenomeno, è chiaro che a prescindere dalla volontà chi occupa una posizione, quel fenomeno tenderà ad emergere. Va bene, e concludendo su questa parte, vorrei soltanto richiamare l'attenzione su un autore molto importante, Jacob Moreno, che forse avete trovato, che è stato il fondatore della sociometria. La sociometria è l'approccio sociometrico, è una delle più compiute manifestazioni della network analysis, vedete l'anno di riferimento dell'opera, siamo negli anni 30. Nel corso della storia delle scienze sociali, dopo però il periodo di Moreno c'è stata un'età che alcuni studiosi come Freeman ad esempio considerano l'età buia, no? È scomparsa l'attenzione per l'analisi delle reti, siamo comunque dopo Simmel temporalmente, e quindi anche per il modo in cui sono state condotte delle indagini eccetera, poi tornando naturalmente più avanti nel corso del tempo, quindi dobbiamo fare una storia dell'analisi delle regole. Io Moreno lo richiamo perché alla triade aggiunge altre strutture sociometriche che com'è? Questa posso fare tipo il gruppo a stella, il cerchio e la catena. Questo è il cerchio, questa è la catena, e poi abbiamo la stella sociometrica. È molto importante il concetto di stella sociometrica, perché questo concetto poi si utilizza per determinare il livello di centralizzazione di un gruppo. Un gruppo è tanto più centralizzato quanto più ci sono al suo interno uno o pochi membri che sono molto più centrali rispetto agli altri. Il caso della stella sociometrica è emblematico, cioè qui abbiamo un nodo che è altamente centrale e tutti gli altri che sono alla stessa maniera periferici tra di loro, ok? Quindi quando poi impareremo a misurare la centralizzazione, la formula delle formule che vedremo per la centralizzazione consente di confrontare la situazione che noi troviamo nella realtà con questa. Cioè noi troviamo un gruppo di 6 nodi, nell'esempio, che si configura così, la centralizzazione consiste nel confronto tra questa situazione e quest'altra. Se il gruppo fosse così, avrebbe un livello di centralizzazione del 100%, tanto più si allontana da questa configurazione, cioè tutti diventano simili rispetto alla centralità all'interno del gruppo, tanto più perde di centralizzazione. Quando un gruppo composto da 6 nodi, vedete, questo è composto da 6 nodi, questo non è più la stella, no, la centralizzazione, quando impareremo a misurare la centralizzazione di questo gruppo, lo confronteremo con questo, la formula prevede un confronto tra questa situazione e questa. Se sono uguali, cioè se questo fosse una stella, avremmo la centralizzazione massima, cioè un nodo altamente molto più centrale rispetto a tutti gli altri. Tanto più ci si allontana da questa situazione, cioè tutti i nodi diventano indifferenziati rispetto ai legami, perché tendono ad essere tutti collegati tra di loro, tanto meno sarà centralizzato. Un gruppo completamente denso, dove tutti i nodi sono collegati tra di loro, avrà una centralizzazione pari allo 0%. Ok? Quindi il concetto di gruppo a stella o di stella sociometrica è molto importante, perché abbiamo un riferimento teorico e anche grafico molto, molto importante per studiare la centralizzazione. Moreno propone il nostro strumento del sociogramma, che è l'espediente grafico per descrivere le proprietà formali delle configurazioni sociali. I sociogrammi li vedremo quando vedremo noi vedremo tre modi di rappresentare gli eventi: la rappresentazione visuale attraverso il sociogramma, è quello che vi ho detto all'inizio quando vi ho fatto vedere quei reticoli sulle classi di scuola elementare. Ok, facciamo il commento del disegno. La rappresentazione utilizzando la teoria dei grafi, e quindi alcune misure, densità, centralizzazione, centralità, eccetera, e poi la rappresentazione matriciale, cioè utilizzando le matrici. Ogni rete si può esprimere come una matrice di informazioni. Sottogramma, rappresentazione matriciale, sulla base della seconda. Utilizzando la teoria dei grafi. Ah, sì. La teoria matematica dei grafi. E poi sarà importante, anche se la rappresentazione è meno bella forse da vedere, quella con le matrici, perché i programmi, tipo quello che ha già scaricato lei, i software, sono delle matrici. Certo. Cioè dei fogli tipo Excel per intenderci, d'accordo? E quindi dobbiamo capire come si infilano di là di là, perché una volta che li abbiamo messi lì dentro, poi disegniamo le reti. Vediamo allora come si operativizza la relazione sociale, questo è un tema molto importante e che forse riusciamo a concludere, chissà. Adesso cominciamo a mettere in fila i concetti che ci servono per rendere operativo il concetto di relazione sociale. Per studiare le relazioni sociali bisogna passare dalla definizione puramente teorica del concetto alla definizione operativa, cioè una definizione che consenta di raccogliere delle informazioni e di produrre delle misurazioni. Ok? Allora, quali sono i concetti di base che consentono di analizzare? Siamo al terzo capitolo di Chiesi. Quali sono i concetti di base che consentono di analizzare i fenomeni sociali come processi che si fondano sulle relazioni sociali? Innanzitutto il concetto di soggetto. Dobbiamo decidere quali sono i soggetti da prendere in considerazione e quali caratteristiche dei soggetti occorre prendere in considerazione. Primo concetto di base, adesso li vedremo uno alla volta. Il concetto di legame. Quando vi dicevo bisogna scegliere il legame, le qualità dei legami, e se non avete nessuna idea di come funzioni un contesto, anche utilizzare un testimone significativo per raccogliere delle informazioni, e poi vi ho detto, poi vedremo quali sono le caratteristiche del legame, e oggi si vede che il giorno in cui tengo fede alle promesse che faccio è il giorno in cui vedremo alcune caratteristiche del legame. Poi il concetto di relazione sociale, che è distinto dal concetto di legame ed è più concetto più generale, potremmo dire più ampio, più difficile da definire rispetto al concetto di legame. Il concetto di gruppo e di sottogruppo, noi abbiamo già definito il gruppo, adesso vedremo come si definisce il concetto di gruppo utilizzando l'analisi delle reti sociali. dove i gruppi non sono un punto di partenza per lo studio della realtà sociale, ma sono una cosa che dovete trovare. E in base alle caratteristiche strutturali che identificate, faccio un esempio di quello che ho appena detto. Questo sottogruppo lo dobbiamo trovare, possiamo sapere esattamente che c'è. E come lo troviamo? Lo identifichiamo a partire dalle caratteristiche strutturali che questo pezzo di rete ha rispetto al resto. In questa porzione di rete tutti i nodi potenzialmente attivabili sono attivati. Quindi rispetto all'intero rete, all'intero network e rispetto a ciò che resta fuori, è speciale, ha delle caratteristiche speciali. Se queste caratteristiche si associano con i comportamenti individuali, diventano speciali pure per noi e le prendiamo in considerazione. Infine, il concetto di struttura del reticolo complessivo. Partiamo dal soggetto. I soggetti più studiati sono gli individui umani a livello micro. Ma l'approccio di rete può studiare anche le relazioni tra soggetti collettivi, cioè tra gruppi, associazioni, istituzioni, eccetera. Cioè tra organizzazioni, molte volte voi avete fatto esplicitamente riferimento alle relazioni tra organizzazioni. Ebbene, queste sono soggettività, ma sono soggettività collettive, sono soggetti collettivi. Le relazioni tra gli stati, tra le regioni, tra gli attori, le ONG, i gruppi operativi, statali, delle forze armate, eccetera, in situazione di emergenza, sono soggetti collettivi, non individuali, ok? E quindi qui abbiamo la necessità innanzitutto di scegliere se vogliamo studiare i soggetti individuali oppure le associazioni. Bene, quali sono le caratteristiche dei soggetti che dobbiamo considerare? Qui l'analisi, la definizione metodologica dei soggetti non è molto diversa da quella che faremo in statistica. Però innanzitutto, come vi dicevo, la prima scelta da fare è tra e rispetto ai tipi di soggetti che vogliamo studiare. Allora, innanzitutto i soggetti devono essere discreti, non nel senso di attenti a quello che dicono, eccetera, eccetera, ma discreti nel senso di chiaramente separabili l'uno dall'altro. Ok? Voi direte, ma nel caso dei soggetti individuali è semplice. Vabbè, certo, in quel caso è semplice. Però se dovete studiare, ad esempio, le relazioni tra un gruppo operativo che interviene in situazione di emergenza che è collegato alle forze armate, più poniamo che si tratti di una situazione che prevede un rischio ambientale, eccetera, più e avete dentro delle associazioni, per esempio San WWF, che intervengono sia con un gruppo operativo locale che con il gruppo nazionale, è chiaro che i confini tra questi due soggetti non sono più così chiaramente identificabili, sono parzialmente sovrapposti, l'uno può essere parte dell'altro, quindi non sono discreti, devono essere discreti. Occorre che siano soggetti diversi per essere studiati e non devono essere eterogenei, cioè devono appartenere allo stesso tipo di fenomeno. Reti tra individui o reti tra gruppi, ma non reti tra individui e gruppi. Questo non ha senso. Non si possono studiare relazioni tra individui e istituzioni con la network analysis. Poi certo che ha un senso la relazione tra individui e istituzioni, non sto dicendo che non ce l'abbia. Come? Non confrontabili. Ma esatto, non sono confrontabili, d'accordo? È anche difficile definire i contorni di un legame. Ok? Quindi devono essere discreti, cioè chiaramente separabili l'uno dall'altro, con confini determinati non devono essere eterogenei e se appartengono a più categorie, per il sesso, l'etnia di appartenenza, la nazionalità, cioè avete soggetti maschi e femmine che sono cittadini di un paese, per esempio cittadini italiani e cittadini non italiani, e magari avete anche dato dei dettagli sulle altre cittadinanze o rispetto ai continenti, eccetera. Ecco, per tali categorie, le categorie devono essere correttamente classificabili. Quando decidiamo di classificare i soggetti per categorie, le categorie devono essere correttamente classificabili. Che cosa vuol dire? Perché questo è importante? Perché dopo noi, a partire dalle relazioni che esistono tra soggetti che appartengono a diverse categorie, potremo dedurre, ricavare delle informazioni sui rapporti tra le categorie. Cioè devono essere categorie, cioè come maschio e femmina, o bianco e nero. Cioè, una non ci deve essere una cosa intermedia per cui è o italiano o straniero. Sì. Maschio o femmina. Sì, sì, sì, sì, esatto, esatto, esatto, esatto. Vuol dire proprio questo. E stavo pensando mentre si diceva questo che le perché dopo a questo punto noi guarderemo le relazioni tra le categorie guardando le relazioni tra i soggetti che compongono le diverse categorie, cioè per sapere se maschi e femmine interagiscono tra di loro guarderemo le relazioni tra i maschi e tra le femmine, cioè tra soggetti che appartengono all'una e all'altra categoria. Ora, questo è molto interessante perché se noi facessimo invece un'analisi individualista della situazione sociale non potremmo mai vedere le relazioni tra categorie diverse, proprio perché i soggetti non possono, non è previsto il fatto che mettano in relazione cose diverse tra di loro. Cosa vuol dire che le categorie devono essere correttamente classificate? Che devono essere esaustive, cioè che devono coprire tutta l'estensione semantica dell'oggetto che stiamo studiando. Cioè se volete raccogliere i dati sulle nazionalità dovete avere tutte le nazionalità disponibili. Tutte le nazionalità presenti devono essere contemplate nello strumento che voi utilizzate per raccogliere le informazioni. Non possono restare soggetti che non riescono a entrare in nessuna delle categorie perché non è stata prevista. Devono essere mutuamente esclusive. Un italiano non può essere anche non italiano. Un cattolico non può essere anche musulmano. Si devono escludere tra di loro. Quindi è piuttosto semplice. Per esempio, se io... dovete prevedere la modalità doppia nazionalità in quel caso, ok? Quindi diciamo che dovesse scendere essendo esaustivo dovete scusare. No, allora in questo caso se si può avere solo una se si può avere solo una caratteristica, per esempio cioè l'appartenenza religiosa, allora non c'è nessuno. Si ha una sola grandezza da prendere, ma se ci sono due nazionalità, cioè due caratteristiche, poi diciamo due cittadinanze, la nazionalità potrebbe anche essere una, perché fortemente se la sceglie, ma la cittadinanza è quella anagraficamente riconoscibile, va bene? Allora, queste sono due variabili diverse. Innanzitutto dobbiamo chiedere quante cittadinanze hai, una o due, se sappiamo che ci sono casi con due cittadinanze, ok? Chi risponde due, le indica, deve avere la possibilità di indicare tutte e due, in due variabili distinte, che per gli altri casi ci sarà solo la prima variabile, per questi che non arriveranno, dopo ce ne saranno due, dopo faremo noi le combinazioni per ricostruirle tutte, d'accordo? Ma è importante perché altrimenti potresti correre il rischio di... Certo che è importante, e io le posso fare un altro esempio in cui la mutua esclusività... Arrivederci! Buon weekend! Grazie. Per esempio, se noi in un questionario abbiamo lei si considera musulmano, cattolico, cristiano, testimone di Geova, secondo voi abbiamo garantito la mutua esclusività? Perché? Il testimone di Geova è cristiano. Il cattolico, allo stesso modo, è cristiano. Quindi bisogna fare attenzione. Allora, anche in questo caso abbiamo due diverse grandezze da... perché c'è il grande, diciamo così, gruppo delle religioni cristiane, cioè che riconoscono il Cristo, la figura, eccetera, eccetera, le religioni non cristiane, poi dentro, se ci serve un dato di dettaglio, dentro il gruppo dei cristiani ci sono cattolici, testimoni di Geova, protestanti, anglicani, eccetera, eccetera, va bene? Devono essere individuabili in maniera univoca per l'attribuzione dei soggetti, cioè un soggetto deve essere univocamente attribuito ad una modalità e questi aspetti non sono molto diversi dagli aspetti che si prendono in considerazione quando si costruisce una variabile dell'analisi statistica classica. Le classi devono essere così. Allora, se noi vogliamo classificare i soggetti, perché poi ci interessa sapere come le categorie a cui appartengono i soggetti sono in relazione tra loro grazie alle interazioni tra i soggetti, dobbiamo rispettare queste regole, ok? La presenza di due o più categorie di soggetti per diverse proprietà consente di studiare le relazioni tra le categorie a partire dalle relazioni tra i soggetti contenuti dalle categorie. È chiaro questo passaggio? Benissimo. Allora, questo passaggio, secondo Chiesi, consente, può essere letto come il passaggio dal livello micro al livello macro di indagini, cioè dall'analisi delle caratteristiche degli individui all'analisi delle caratteristiche macro, cioè delle relazioni tra i grandi gruppi, le grandi categorie dentro noi, dentro le quali noi siamo abituati a mettere gli individui. Ed è importante perché, siccome questi due livelli di analisi sono sempre in contraddizione e in conflitto tra di loro, il micro e il macro, in questo modo si dimostra in qualche misura che, guardando ciò che costituisce veramente la società, cioè le relazioni sociali, questa differenza, questa contraddizione, questo scontro tra micro e macro non ha ragione di esistere, perché se analizziamo le relazioni possiamo passare continuamente dal livello micro al livello macro delle categorie per organizzare, categorizzare i soggetti. Le relazioni tra entità collettive risultano dalla combinazione delle relazioni individuali tra i membri di tali entità. Perché questo è importante? Comunque, complimenti, lei ha una costanza e una potenza con il braccio sinistro di tenere quello. Gioca a tennis. Frutto di un grande allenamento. Sì, ma è il giocatore di tennis, posso permettermi? No, perché poi rimane proprio in bocca, complimenti. Io non ce la farei, pur essendo un mediocrissimo. Allora, perché questo aspetto è particolarmente importante? Faccio io una domanda a voi, no? Poniamo che in un quartiere multietnico ci sia la necessità di intervenire dopo una grave situazione di emergenza. Ok? Caspita, naturalmente il fatto che sia multietnico, che tutti sanno, insomma, che le autorità, eccetera, sia noto come quartiere multietnico, ci costringe subito a prendere in considerazione i soggetti a partire dalle loro appartenenza. Allora, come leggeremo la possibilità di intervenire? Probabilmente potremmo dire, ci potremmo aspettare che chi deve intervenire dica: beh, allora dobbiamo fornire questo servizio per questi soggetti perché hanno questa necessità, perché appartengono a questa comunità. Questa comunità è in contraddizione con questa, hanno avuto dei conflitti, eccetera, eccetera, quindi teniamo in considerazione i soggetti a partire dalle comunità alle quali appartengono, le comunità etniche. Guardiamo la relazione di appartenenza tra i soggetti e la comunità etnica di riferimento. Punto. Secondo voi questo è sufficiente per ristrutturare le reti comunitarie? No, perché? Per quale motivo non è sufficiente? Potrebbero avere altre relazioni. Cioè, Esatto, cioè non guarderemo le relazioni che ci sono tra loro, che invece dovremmo guardare tra gli individui, che dovremmo guardare anche a partire, avendo conoscenza della comunità etnica di riferimento, per stimare, capire quali sono le relazioni tra soggetti che appartengono a culture diverse e che vivono sempre, diciamo, una quotidianità l'uno accanto all'altro. Cioè non si può partire da una visione precostituita delle relazioni tra comunità etniche diverse. Ma viene in mente, io non ho potuto andarci quando c'è stato il terremoto in Emilia, in quale campo, i soldati, e qui praticamente i soldati erano perché erano quattro comunità di diverse. Qui per il problema della gestione del campo, per il problema delle relazioni, dell'uso del costume, per queste diverse comunità. Prese il fatto di cucinare, cioè dovevi cucinare e tu devi già cucinare e questi non mangiano, e non mangiano il cibo e non mangiano per la modalità che è cucinato secondo, solo il problema è che avevano momenti di perdita diversa per cui si fastidivano per virgolette a vicenda. E il problema è che alla fine hanno dovuto fare una cucina fuori perché se no si creavano tensioni all'interno del campo. Eh sì, perché nel senso, relativamente, nel senso che lo reggi, aumenta la complessità in maniera notevole. Beh, delle regole, se vuole così, se va così, è una situazione che va governata così. Fare in modo che si ristrutturino, che non si rompino le scatole della vicenda, perché vivere in un contesto ristretto, in una tenda, con niente, e dover rispettare gli usi, costumi e abitudini di ognuno. Ecco, però. Per quello che mi veniva in mente le etnie, di capire come. Perché tra loro probabilmente è più semplice, ma come? No, però vedi anche questo approccio che diciamo adesso nel racconto anche dei problemi che sono emersi, no? È la storia di relazioni tra comunità, a prescindere dalle relazioni che ci sono tra i soggetti. Sì, ma io probabilmente adesso perché mentre prima erano spazi sul territorio con quello di limite. E non erano in relazione tra loro? Non lo so, non ho potuto andarsi, qui sono che mi hanno raccontato sul campo. Bisognerebbe forse capire in che relazioni erano prima, ecco, per capire l'emergenza e come erano diluite sul territorio, mentre lì erano, diciamo, concentrati fisicamente in un campo di X metri quadri. Sì. In tende da 4 metri per 5 attaccate l'uno all'altro, per cui voglio dire. Perché magari diluite nel territorio, mescolate per culture diverse, erano meno scambiate tra loro che non lì. Sì, c'era meno attrito, meno frizione. Però è chiaro che se guardiamo la relazione tra due culture, a partire dal fatto che una mangia una cosa e l'altra no, e devo stare attento a non prepararla, eccetera, per non produrre dei conflitti, è chiaro che noi non guardiamo le relazioni tra gli individui, invece è ben probabile che ci siano delle. Però si creano, questo è chiaro. Si creano, no? Per cui. No, questo è chiaro, probabilmente la presenza di una cognizione verosimile, attendibile. Sulle relazioni tra comunità, stimata a partire dalla presenza di relazioni tra persone che appartengono a diverse comunità etniche, può rendere anche più gestibile e più facile il superamento di tensioni di conflitto che comunque in una situazione di questo tipo io immagino possano essere difficili da evitare. No, sicuramente sì. Cioè, però è anche sintomatico perché ora alla fine, diciamo, se sono venuti a essere, tra virgolette, sfondate le opzioni di usufruire delle strutture del campo, sono determinati. Ah sì? Mi pare di capire. Vissuto, diciamo. diciamo i primi due giorni, poi sono andati via. Si sono tolti da quella situazione. Mi pare di capire che la metodologia di lavoro, no? Cioè, questo determina una metodologia di lavoro, quindi che al di là delle considerazioni preconcette, comunque la metodologia di analisi parte dal micro, cioè l'individuazione delle relazioni personali. Poi queste diranno come queste relazioni personali cambiano col cambiare dell'appartenenza. No, oppure si potrebbe dire, a partire dalle relazioni personali possiamo dire come etnie diverse interagiscono tra di loro. Ma al di là che noi abbiamo come oggetto di indagine le etnie, abbiamo come oggetto di indagine i soggetti, e questo ci dirà poi alla fine come questi soggetti all'interno delle etnie si comportano. Sì, certamente. Proprio come metodologia di lavoro. Sì, si parte sempre dalla condizione strutturale per passare per spiegare il comportamento dei singoli. Sì, in effetti il passaggio dal livello micro al livello macro di indagine si è in questo tipo, ma non sta a significare che sia la soggettività a determinare la struttura. C'è sempre il postulato iniziale per cui è la struttura. Certo, sì. Però se bisogna passare, cominciare dal micro per passare al macro? Ah beh, sì, non è possibile fare diversamente. Cioè, se noi vogliamo guardare le relazioni tra soggetti che appartengono a culture diverse, sì, non possiamo non partire dai soggetti per capire se sono collegati tra di loro oppure no. Altrimenti dobbiamo presupporre che sia più probabile che interagiscano oppure no, in base a che cosa? A quello che conosciamo in generale, ai giudizi o pregiudizi che ci sono rispetto a delle culture, insomma, è un po' particolare. Comunque no, questa sottolineatura qua serve unicamente a dire che con le relazioni risolviamo il problema micro-macro, che non si pone sostanzialmente, d'accordo? Ecco, vediamo i legami, i soggetti sono collegati tra loro da vari tipi di legame, purtroppo non c'è una tipologia condivisa di legami. Cioè, per dire, quanti sono complessivamente i legami che possono esistere tra gli individui, oppure esiste un modo per catalogare i legami? Non c'è, non si trova in letteratura. Io ho fatto, troverete nel mio libro, un misero tentativo di risolvere questo problema, trovando un modo invece per incasellare i legami, naturalmente utilizzando in maniera approfondita ciò che esiste già rispetto a questo e provando a fare una proposta. Ecco, non esiste una tipologia condivisa di legami, cioè di carenza di elaborazione teorica, ma una volta individuata la natura di un legame, noi possiamo rilevarne 5 caratteristiche di base. Ora, non so se ho messo una slide, poi torniamo su questo un attimo. Ecco, soltanto poi torno sulla slide di prima. Questa è la figura che trovate, la tabella che trovate a pagina 50 di Chiesi. Vedete i tipi di legami, guardate. Ci sono tipi di legami, questi sono dei manuali di network analysis. Vedete i legami menzionati dentro questi manuali. Scambio economico, dono, informazioni, conversazione, interlocking directories, relazioni di tipo strumentale, atteggiamenti, poi relazioni informali, cioè amicizia, simpatia, ammirazione, deferenza, eccetera. Cioè, questo è un esempio che si fa per far vedere quanti tipi di legami diversi siano utilizzati, ma manca un modo per classificare questi legami, ok? E invece sarebbe utile, perché se troviamo un modo per classificare e vogliamo studiare la relazione, è sufficiente avere un legame indicatore di ogni tipo di... Ecco, però, una volta scelto il legame, noi possiamo rilevarne delle caratteristiche di base, che sostanzialmente sono 5. Questa scelta è molto importante, sapete perché? Perché la scelta della o delle caratteristiche di base da rilevare ci indirizza già rispetto alle misure che dopo possiamo utilizzare per prendere in considerazione. Quindi, naturalmente, ci deve essere un'affinità semantica rispetto a quello che stiamo studiando, Cioè, non si può studiare legami di amicizia a prescindere dalla direzione del legame, non si può considerare sempre simmetrico il legame di amicizia, d'accordo? Però poi la scelta va anche fatta rispetto a come vogliamo studiare, analizzare i legami, perché alcune misure poi si possono calcolare, altre più complesse, eccetera. Allora, vediamo le caratteristiche di base dei legami. Se ci siete. Sì. Ok? La prima caratteristica qual è di un legame? Un legame può semplicemente esserci o non esserci. O non esserci. Benissimo. La prima caratteristica di base del legame è la presenza o assenza. Ci si può anche fermare qua, eh? Si può anche decidere di studiare semplicemente la presenza o l'assenza dei legami. Ok? Per esempio, il legame di parentela. Non ci interessa sapere che verso ha questa parentela. Cioè, ma c'è o no? Siamo colleghi di lavoro. Sì o no? Ok, quel giorno c'ero anch'io a quella riunione, c'era anche lui. Condividiamo, abbiamo condiviso la presenza a quella riunione. Il legame c'è stato. Lui non c'era, il legame non c'è stato. Ok? Ci si può fermare qua, questo è il livello più semplice, essenziale, è più semplice. Presenza o assenza. Vedete, questo è un esempio di una matrice, che poi vedremo, si chiama matrice di adiacenza. Questa matrice rispondo alla domanda: due soggetti sono adiacenti tra di loro? Quando è che due palazzi sono adiacenti? Quando sono attaccati, vicini. Questi sono collegati, sono adiacenti. Sì, 1, no, 0. Se volessi disegnare quello che vedo là dentro, dovrei fare un nodo che si chiama Paolo, un altro nodo che si chiama Marco, un terzo nodo che si chiama Sara e vi chiedo: tra Paolo e Marco è presente un legame? No, è assente. Sì? No, sì, è presente. Uno. Ok. Tra Paolo e Sara è presente un legame? No. No. Tra Marco e Sara è presente un legame? Sì. Sì. Questo, a livello di matrice, si presenta così. Presenza o assenza? Naturalmente i valori potranno essere soltanto binari. 0, 1. Non c'è? C'è. Inoltre c'è una caratteristica aggiuntiva dentro questa matrice. Questa matrice risponde alla domanda: Paolo e Marco sono collegati? Marco e Paolo sono collegati? Sara e Marco sono collegati? Marco e Sara sono collegati? Che cosa trovate all'interno di questa matrice? Se io evidenzio naturalmente, ecco, su questa diagonale non ci sono valori, perché Paolo e Paolo non sono collegati tra di loro, essendo la stessa persona, d'accordo? Che cosa notate in questa matrice? Che rispetto a questa diagonale è simmetrica, benissimo. Cioè, se Paolo e Marco sono collegati, senza dubbio pure Marco e Paolo saranno. Se Paolo e Sara non sono collegati, neanche Sara e Marco, neanche Sara e Paolo saranno. Perché? Perché un legame che ci può essere o no è sempre simmetrico. Se c'è tra Paolo e Marco, ci sarà anche tra Marco e Paolo. Ok? Ecco, questa caratteristica invece viene meno se noi consideriamo la seconda caratteristica di base del legame, cioè la direzione del legame. Allora io potrei avere la presenza di un legame tra Paolo e Marco. Paolo e Marco, che evidenza. Ma potrei benissimo dire che tra Marco e Paolo trovo uno zero. Se prima abbiamo detto che è simmetrico, sì. Perché adesso la direzione non lo è, guarda, cioè mi sfugge qualcosa. No, guarda, la prima caratteristica di base del legame è la presenza o assenza, e noi ci fermiamo lì. Per esempio, se studiamo un legame di colleganza, quella strategia va benissimo. Presenta o assenza, la matrice che abbiamo visto prima, la matrice che risponde: Paolo e Marco sono colleghi di lavoro, Paolo e Sara sono colleghi di lavoro. Ok, questo è dare un approfondimento. Non un approfondimento, aggiungiamo un'altra caratteristica del legame che non c'è nel legame di colleganza, dove basta la presenza o assenza. Per esempio, l'amicizia richiede la considerazione della direzione del legame. Ok, allora per esempio Paolo, Marco e Sara, i nostri tre amici di prima, Paolo, e sana. Naturalmente non possono essere amici tra di loro, cioè ciascuno non può essere amico di se stesso, però Paolo e Marco sono amici. Paolo considera Marco amico? Sì. Paolo considera Sara amica? No. Zero. Ok? E poi, Marco considera Paolo amico? No. Sara considera Paolo amico? Sì. Marco considera Sara amica? No. Sara considera Marco amico? No. Questa matrice ancora si merita? No. Perché non è assolutamente detto che se esiste una linea tra Paolo e Marco ce ne debba essere anche una di direzione opposta da Marco e Paolo, se noi studiamo l'amicizia. D'accordo? Cioè non basta, e a questo voglio dire, cioè in base al tipo di legame noi scegliamo le caratteristiche di base, ma se consideriamo anche la direzione, i grafi che dopo produrremo, provo a disegnarlo qua, Paolo, Marco e Sara, vedrà una freccia da Paolo a Marco, nessuna freccia da Paolo a Sara, nessuna freccia da Marco verso qualsiasi altra persona, e una freccia che va da Sara invece a Paolo. Il grafo si disegna così ed è un grafo diretto. Naturalmente le misure che si usano cambiano perché il grafo diventa diretto. Bisogna tenere in considerazione il fatto che le gambe non sono. No, ha fatto bene a chiedere, perché immagino che visto l'orario siamo già iniziamo un po' a essere appesantiti da tutte queste informazioni, però ecco, io direi che partiamo dagli esempi. Per finire la presentazione delle caratteristiche, relazione di colleganza, essere o non essere, presenza o assenza, relazione amicale, la direzione, per forza, io ti considero o non ti considero. Poi potreste chiedere a soggetti che magari lavorano dentro un gruppo assieme se si sono tra di loro, se ritengono simpatici o antipatici, se esiste un legame di collaborazione o di conflitto tra di loro. Allora, un legame di conflitto non è un'assenza di legame, è un legame negativo. Ok? Allora, il segno è la terza caratteristica di base dei legami e può essere positivo o negativo ed esprime la valenza di un qualsiasi atteggiamento, amicizia, inimicizia, eccetera. I grafi che si rappresentano i segni si chiamano grafi segnati, e poi vedremo qualcosa sulle misure che si utilizzano nei grafi segnati. Poi potreste essere interessati non solo a sapere se due persone, vi ricordate quando abbiamo parlato di forza dei legami? Volete sapere non solo se due persone si frequentano, ma anche quanto si frequentano. Per esempio, quante volte avete parlato nel corso dell'ultima settimana, quante volte vi siete visti? Oppure, quanto consideri importante questa persona nella tua vita? Per nulla, poco, abbastanza, molto, moltissimo. Da 1 a 10, quanto ti senti legato a lui effettivamente? Dai un voto a questo legame. Allora è chiaro che qui non stiamo soltanto parlando di legame che può esserci o no, che ha una certa direzione, ma anche che ha un certo peso. Okay. Chiaramente, se voi chiedete a Sara quanto ti senti legato a Paolo, Sara vi dice 9, in una scala da 1 a 10, questo è un legame pesato, perché c'è un peso, e anche diretto. Se chiedete a Paolo e a Marco quante volte durante quanti giorni si sono visti nel corso dell'ultima settimana e vi rispondono 3, questo è un peso che però si collega a un legame che non è diretto. Ma comunque un peso del legame, se si sono visti 3 volte sarà sempre di più che vedersi una volta sola e di meno che vedersi tutti i giorni, cioè 7 giorni. La misura del peso deve essere, quindi la misura dell'intensità, almeno di livello ordinale, cioè dentro una scala dove possiamo stabilire che cosa viene prima e che cosa viene dopo. Praticamente la direzione usa un vettore, segno più o meno il peso, il numero, la molteplicità ci arriviamo alla molteplicità, sempre un passo oltre, avanti. Un passo oltre. Adesso arriviamo alla molteplicità. No, prego. È una temeraria. Anzi, guardi, rispondiamo subito. Se ci interessa sapere se due persone sono colleghe di lavoro, si considerano amiche, e quante volte si sono frequentate nel corso dell'ultima settimana, abbiamo in ballo tre legami tra di loro: la frequentazione, l'amicizia e la colleganza. Se li prendiamo assieme tutti e tre, stiamo studiando la molteplicità dei legami. Abbiamo più legami diversi tra due persone, ok? È chiara la molteplicità. Tanti legami assieme, li prendo assieme in considerazione tutti assieme, ok? Volevo aggiungere sul tema del peso, il livello ordinale, no? Per esempio, uno potrebbe dire: questi sono i tuoi quattro colleghi, fammi una classifica tra quello con quale preferisci il primo e l'ultimo all'interno. Noi sappiamo che l'ultimo è ultimo rispetto a chi lo precede, e basta. A livello ordinale sappiamo cosa c'è prima e cosa possiamo mettere in ordine, d'accordo? E possiamo avere un ordine dentro il legame. Se utilizziamo una scala per nulla, poco, abbastanza, molto, moltissimo, sappiamo che moltissimo e viene dopo molto, viene dopo per nulla, ma non che è 5 volte per nulla, per intenderci. Ok? Questo è il livello ordinale. Sì, che non si rappresenta sempre. Con un numero, sempre con un numero, ok? Nella. Però dopo. Non vuol dire dare sempre una priorità, cioè un ordine prioritario, insomma. No, sì, se metti in ordine i colleghi, sì, è anche un ordine prioritario. Però se utilizziamo il livello ordinale, possiamo confrontare tra di loro legami che hanno diversi pesi, dicendo quale viene prima e quale viene dopo. Li possiamo mettere in numero, ma non possiamo trattarli come numeri. Per trattare i pesi come numeri occorre utilizzare delle misure cardinali, cioè dei numeri. Ok? Per trovare dei numeri ci sono due strategie fondamentalmente: il conteggio. Quante volte vi siete visti nel corso del 5 e 4? Quindi alla fine possiamo calcolare il livello medio di volte in cui i nostri soggetti si sono visti, facendo la media aritmetica. La seconda strategia invece è la misurazione, il conteggio e la misurazione. La misurazione in sociologia è l'esito di un artificio. Per misurare qualcosa, ma non solo in sociologia, bisogna decidere che cosa è misurabile, stabilire quando questa cosa manca, è una scala di misurazione da attaccare di vicino per misurarla, ok? Fatta da numeri. Le scale che in genere si utilizzano sono scale cosiddette o variabili, le variabili che si producono sono variabili quasi cardinali, cioè noi le possiamo trattare come se fossero dei numeri, anche se sono una nostra invenzione. Per esempio le scale 1-10, le scale 0-10, le scale 0-100. Dimmi da 0 a 100 quanto ti senti vicino, quanto è calda la relazione con questa persona, il termometro dei sentimenti, no? Da 1 a 10, quanto è d'accordo da 1 a 10 con la seguente affermazione? E voi rispondete. Alla fine si può trarre una media complessiva, perché l'intervistato usa il numero, riconosce il numero, e quando dice 8 sa, e deve saper contare per poter rispondere, che 8 è il doppio di 4, che è 4 volte 2. Ma se dici per nulla, poco, abbastanza, molto, moltissimo, moltissimo, non stai dicendo che chi di voi direbbe che moltissimo è 5 volte, e 5 volte per nulla, che 5 per nulla fanno moltissimo. Ma quando dovrete inserire i dati con queste scale dovete comunque utilizzare una serie di numeri, in genere si può usare una serie di numeri naturali, 1, 2, 3, 4, 5, d'accordo? Ma 5, calcolare una media significa che 5 è, e 5 volte di, se voi calcolate la media, state dicendo che 5 è 5 volte 1. Cioè, se avete utilizzato delle cose che si mettono in ordine ma non sono in rapporto tra di loro, che moltissimo è 5 volte per nulla, nessuno di noi sottoscriverebbe questo, o no? D'accordo? Quindi bisogna scegliere il livello, almeno il livello. Eccoci qua. Siamo, non chiudiamo subito. Sì, andiamo bene. E la molteplicità l'abbiamo già vista. Ma anche la molteplicità la usiamo come numeri. No, perché possiamo tenere in considerazione anche diverse caratteristiche dei legami. La molteplicità è un po' più complessa da prendere in considerazione, ma si dice che si prende in considerazione la molteplicità quando studiamo contemporaneamente più legami tra gli individui, d'accordo? Poi si può anche contare, se per esempio per lei è importante sapere se su 10 legami ce ne sono almeno 3, almeno 4, almeno 5, a prescindere da quelli che sono attivati, allora benissimo, conta e calcola la media anche rispetto alla metodicità. È molto flessibile, però diciamo che queste sono le caratteristiche di fondo. Poi noi le adattiamo alle nostre esigenze di ricerca. E questa è la figura, pagina 51, dove che si mostra il click di legami. Va bene, io vi ringrazio proprio tanto tanto per la vostra grazie presenza. A lei. Se non avete domande, ah no, per finire, no, perché questo lo riprendiamo la prossima settimana, va bene. Non mi ero accorto che si erano fatte le... No, casomai quello della moltiplicità. Ripartiamo da là. Sì, perché mi, okay. Cioè, mi sfugge il discorso di più flessibile, ma anche più complessa. Certo, ma infatti